Anna dai capelli rossi, volume sesto, La grande casa di Lucy Maud Montgomery. Ancora una volta Anne of Green Gables. Com'è bianca la luce della luna stasera, esclamò Anna Blythe, che non aveva perso l'abitudine di pensare ad alta voce, salendo per il vialetto del giardino, Wright, in direzione della porta d'ingresso di Diana. Intanto dei piccoli petali di ciliegio lottavano con l'aria salmastra, mossi dalla brezza. Si fermò un attimo a guardare intorno a sé, sulle colline e i boschi che aveva amato nei passati giorni e ancora amava, cara, Avonlea. Glen St. Mary ora era la sua casa e lo era da molti anni, ma Avonlea aveva qualcosa che Glen St. Mary non avrebbe mai potuto avere. Fantasmi di se stessa incontrava ad ogni svolta, i campi dove aveva vagabondato la colsero. Perenni echi della precedente dolce vita erano tutti intorno a lei. In ogni luogo in cui guardava c'era qualche bel ricordo. C'erano giardini fantasma qua e là, dove fiorivano tutte le rose di ieri. Anna aveva sempre amato tornare a casa ad Avonlea, anche quando, come ora, il motivo della sua visita era triste. Lei e Gilbert erano venuti per il funerale del padre e Anna era rimasta per una settimana. Marilla e Mrs. Linde non potevano sopportare di vederla andare via troppo presto. Nel tanto usato vano della finestra della sua vecchia camera, sempre pronta a riceverla, la sera del suo arrivo Anna trovò un grosso e accogliente mazzo di fiori primaverili che Mrs. Linde aveva messo lì per lei. Un mazzo di fiori che quando Anna vi nascose il viso dentro sembrava contenesse tutta la fragranza di anni indimenticabili. L'abituale essere Anna era lì che l'aspettava. Profonda, cara, vecchia contentezza si risvegliò nel suo cuore. La camera di Green Gable la abbracciava, la circondava, la avvolgeva. Guardò amorevolmente il suo vecchio letto con il copriletto color foglia di mela fatto a maglia da Mrs. Linde e i cuscini immacolati e rifiniti con un ampio pizzo che Mrs. Linde aveva lavorato all'uncinetto, i tappeti sul pavimento intrecciati da Marilla, lo specchio che aveva riflesso il volto della piccola orfana con l'infantile fronte, che aveva pianto e sfinita si era addormentata lì quella prima notte tanto tempo fa. Anna dimenticò che era la madre gioiosa di 5 figli. Quella sera era ancora una volta Anna di Green Gables. Mrs. Linde la trovò ancora con aria sognante a guardare nello specchio quando entrò portando degli asciugamani puliti. È veramente bello averti a casa ancora una volta, Anna, e questo è quanto. Sono passati 9 anni da quando sei andata via, ma Marilla ed io sentiamo ancora la tua mancanza, anche se ora ci sentiamo meno sole da quando Davy si è sposato. Millie è davvero una creaturina deliziosa, è proprio carina. È anche curiosa di tutto, come uno scoiattolo, ma io ho sempre detto e sempre dirò che non ci sarà mai nessuna come te. Ah, ma questo specchio non può essere ingannato, Mrs. Linde. Dice chiaramente, tu non sei più giovane come eri una volta, disse Anna capricciosamente. Hai mantenuto molto bene la tua carnagione, disse Mrs. Linde in modo consolatorio. Certo che non hai mai avuto molto colorito da perdere. In ogni caso non ho ancora un accenno del doppiamento, disse Anna allegramente, e la mia vecchia stanza si ricorda di me, signora Linde. Sono contenta, sarebbe stato doloroso se tornata l'avessi trovata che si era scordata di me. Ed è bello vedere nuovamente la luna sopra Haunted Wood. Assomiglia ad un grandissimo pezzo d'oro nel cielo, non è vero? Disse Mrs. Linde. Poi, accorgendosi che stava iniziando un folle volo poetico, fu contenta che Marilla non fosse lì ad ascoltare. Guarda quelle punte degli abeti rivelarsi contro di lei e le betulle nella valletta tenere ferme le braccia verso il cielo d'argento. Oggi sono dei grandi alberi, erano solo piccole creature quando sono arrivata qui, ciò mi fa sentire un po' vecchia. Gli alberi sono come i bambini, disse Mrs. Linde. È tremendo il modo in cui crescono in un minuto che giri loro la schiena. Osserva Fred Wright. Ha solo 13 anni, ma è alto quasi come suo padre. C'è una torta calda di pollo per cena. E ho fatto alcuni dei miei biscotti al limone per te. Non avere paura di dormire in quel letto per gli acari. Ho arieggiato le lenzuola oggi e Marilla, non sapendolo, le ha arieggiate un'altra volta. E Millie, non sapendo niente di noi, lo ha fatto una terza volta. Spero che Mary Blight scenda domani. Si gode sempre un funerale così. Zia Mary, Gilbert la chiama sempre così, anche se lei è solo cugina di suo padre, mi chiama sempre Annie. Anna rabbrividì. La prima volta che mi vide dopo sposata disse: È così strano che Gilbert abbia scelto te. Avrebbe potuto avere così tante belle ragazze. Forse è per questo che non mi è mai piaciuta, e lo so, nemmeno a Gilbert, che per una questione di clan non lo ammette. Gilbert rimarrà a lungo? No, deve tornare domani sera. Ha lasciato un paziente in condizioni molto critiche. Oh, beh, credo che non ci sia molto per tenerlo ad Avonlea ora, dal momento che sua madre è andata l'anno scorso. Il vecchio Blythe non ha mai alzato la testa dopo la morte della moglie. Proprio non aveva più nulla per cui vivere. I Blythe sono sempre stati così, sempre a mettere il loro troppo affetto su cose terrene. È veramente triste pensare che non ci sarà rimasto nessuno di loro ad Avonlea. Erano una buona vecchia stirpe. D'altra parte ci sono Sloane in quantità. Gli Sloane, tuttavia, sono Sloane. Anna, e sarà per sempre, e sempre all'infinito così. Amen. Oh, lascia ci siano altrettanti Sloane, e nonostante ci saranno, io esco dopo cena a camminare per tutto il vecchio frutteto al chiaro di luna. Suppongo che dovrò andare a letto alla fine, anche se ho sempre pensato ad una perdita di tempo andare a dormire quando c'è il chiaro di luna. Ma io ci vado per svegliarmi presto e vedere le prime deboli luci del mattino rubate dall'Haunted Wood. Il cielo si accenderà di corallo e dei petti rossi saranno baldanzosi qua e là. Forse un piccolo grigio passerotto si poserà sul davanzale. E ci sarà oro e porpora delle viole del pensiero da ammirare. Ma i conigli mangiano tutti i letti dei gigli in giugno, disse Mrs. Lynde con deplorazione, mentre scendeva al piano di sotto e si sentiva segretamente sollevata, poiché non doveva più parlare della luna. Anna era sempre stata un po' strana per quel verso. Non stava lì dove aveva usato molto quella stranezza da molto tempo e aveva sperato che l'avesse persa crescendo. Diana veniva giù per il sentiero incontro ad Anna. Perfino alla luce della luna si vedeva che i suoi capelli erano ancora neri e le guance rose e gli occhi luminosi. Ma il chiaro di luna non poteva nascondere che era un po' più corpulenta rispetto agli anni passati, e Diana non era mai stata quella che la gente di Avonlea definiva una mingherlina. Non preoccuparti, tesoro, non sono venuta per rimanere. Oh, come se la cosa mi preoccupasse, disse Diana con rimprovero. Sai che mi piace di gran lunga di più passare la serata con te piuttosto che andare ai ricevimenti. Non sono stata con te la metà di quello che speravo e ormai tu, dopodomani, torni a casa. Ma il fratello di Fred, lo sai. Dobbiamo proprio andare. Oh, naturalmente, io sono soltanto salita per un momento. Ho percorso il vecchio sentiero che facevamo da ragazze attraverso il bosco stregato. Sono passata per il tuo vecchio giardino pieno di pergolati e lungo Willowmere. Mi sono fermata persino a guardare i salici a testa in giù nell'acqua, come facevamo sempre. Sono così cresciuti. Ogni cosa, disse Diana con un sospiro, quando osservo il giovane Fred, siamo tutti così cambiati tranne te. Tu non sei cambiata, Anna. Come fai a mantenerti così esile? Guarda me. Oh, sei un po' matrona, sicuramente, rise Anna, ma sei scampata alla pancetta fino ad ora. Di, come per la mia, non è cambiata. Beh, Mrs. Donnell è d'accordo con te. Al funerale mi ha detto che non dimostro un giorno da anziana. Ma non Mrs. Andrews. Lei ha detto: Povera me, Anna, come sei peggiorata. Beh, tutto è negli occhi dello spettatore o della coscienza. L'unica volta che sento di essere un po' d'accordo con lei è quando guardo le foto nelle riviste. Gli eroi e le eroine stanno iniziando ad avere un aspetto troppo giovane per me. Ma non importa. Di, andiamo ad essere un'altra volta, ragazze. Domani. Questo è quello che sono venuta a proporti. Prendiamoci un pomeriggio e la sera solo per noi e visitiamo tutti i nostri vecchi ritrovi. Tutti quanti. Cammineremo sopra i campi primaverili, attraverso quei vecchi boschi ricchi di felci, vedremo tutte le vecchie cose familiari che abbiamo amato e le colline dove troveremo ancora una volta la nostra gioventù. Nulla sembra mai impossibile in primavera, sai? Bloccheremo i sentimenti da genitori, le responsabilità e avremo tali vertigini quali Mrs. Linde pensa davvero di me tuttora nel suo intimo. Non c'è davvero nessun divertimento a essere assennate tutto il tempo, Diana. Perbacco, questo è proprio tipico di te. Mi piacerebbe, ma non ci sono ma. So a cosa stai pensando. Chi farà la cena? Agli uomini. No, non esattamente. Anna Cordelia può preparare la cena agli uomini tanto bene quanto posso io, anche se lei ha solo 11 anni, disse Diana con orgoglio. Lo doveva fare comunque, io. Dovevo andare alla Ladies' Aid, ma non lo farò, verrò con te. Sarà simile ad avere un sogno che si avvera, sai? Anna, molte sere mi siedo e appunto faccio finta che noi siamo ancora bambine. Prenderò la cena da portar via. Oh, e mangeremo di nuovo nel giardino di Esther Gray. Immagino che il giardino di Esther Gray sia ancora lì. Credo di sì, disse Diana con aria dubbiosa. Non ci sono mai più stata da quando mi sono sposata. Anna Cordelia esplora moltissimo, ma le ho sempre detto che non bisognava andare troppo lontano da casa. Ama girarsi per i boschi. E un giorno, quando l'ho sgridata perché parlava da sola nel giardino, lei mi ha risposto che non stava parlando a se stessa, stava parlando con lo spirito dei fiori. Oh, hai presente quel servizio per il tè delle bambole con i piccoli boccioli rosa di rose che l'hai mandato per il suo nono compleanno? Non c'è un pezzo rotto, è così attenta. Lei lo usa solo quando vengono le tre signore verdi a prendere il tè con lei. Non riesco a farle perdere l'abitudine a pensare quello che lei crede che loro siano. Dichiaro che in qualche modo Anna lei è di gran lunga più simile a te che a me. Può darsi che ci sia più di un nome di quanto Shakespeare ammettesse. Non lasciare malvolentieri ad Anna Cordelia le sue fantasie, Diana. Mi hanno sempre fatto tristezza i bambini che non trascorrono alcuni anni della loro vita nel paese delle fate. Olivia Sloane è la nostra insegnante adesso. Disse Diana senza convinzione. Sai, non è male. Ha preso la scuola solo per un anno per stare vicina a sua madre. Dice che i bambini dovrebbero essere abituati ad affrontare la realtà. Oh, io ho vissuto per sentire che ti sei messa a sostenere lo sloanismo, Diana Wright. No, no, no, non mi piace per niente. Ha quel genere di occhi tondi, fissi, azzurri, del tutto simili a quelli del suo clan. E non mi preoccupano le fantasie di Anna Cordelia. Sono graziose, proprio come quelle che avevi tu. Suppongo che lei prenderà abbastanza realtà con l'andare avanti nella vita. Beh, siamo d'accordo allora. Scendiamo a Green Gables intorno alle 2 e ci prendiamo una bibita, il vino rosso di Ribes di Marilla. E lei lo fa ancora. Ogni tanto, nonostante le proibizioni del ministro e di Mrs. Linde, semplicemente lo faremo per sentirci diaboliche. Ti ricordi il giorno che mi hai fatto ubriacare con quello? Ridacchiò Diana, che non diede importanza a diaboliche come avrebbe fatto con chiunque altro. Ma per Anna era normale. Tutti sapevano che Anna realmente non pensava a quel genere di cose, era il suo modo di essere. Avremo un vero e proprio giorno del ti ricordi domani, Diana. Oh, io non ti trattengo più, c'è Fred che arriva con il calesse. Il tuo vestito è un amore. Fred me ne ha fatto comprare uno nuovo per il matrimonio. Pensavo che non potessimo permettercelo perché abbiamo costruito la nuova stalla, ma ha detto che non aveva intenzione di avere una moglie che assomigliasse a qualcuna che era stata invitata e non ci poteva andare. Dato che tutte le altre sarebbero state vestite con abiti all'ultimissima moda. Non è questo veramente tipico di un uomo? Oh, suona proprio come dice Mrs. Elliot a Glenn, disse Anna severamente. Desideri osservare quella tendenza? Ti piacerebbe vivere in un mondo dove non ci sono gli uomini? Oh, sarebbe orribile, ammise Diana. Sì, Fred, sto arrivando. Oh, bene. A domani allora, Anna. Anna indugiò. Alla fonte delle Driadi sulla via del ritorno. Amava tanto quel vecchio ruscello. Aveva catturato tutte le sue risate dell'infanzia e i suoi vecchi sogni, li aveva trattenuti e ora sembrava volerglieli ridare integri. Poteva vederli riflessi nella chiara bolla, vecchie promesse, vecchi fruscii. Il torrente li custodiva tutti e mormorava di loro, ma non c'era mai nessuno ad ascoltare tranne i vecchi e saggi abeti del Haunted Wood che ascoltano in memory.